il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Per quelli che non hanno mai sentito il suo nome, vi dico che è un nome lituano, ma credo che non sia mai esistito nessuno più newyorkese di Vitas Gerulaitis, nato a Brooklyn, cresciuto nel Queens. Un tennista, non uno dei tanti, uno dei grandi che hanno fatto l'epoca d'oro del tennis, cioè quella degli anni 70. La sua sfortuna è stata proprio quella di giocare in quel periodo lì, in cui c'era gente come Connors, Borg, John McEnroe, e cioè il top del tennis di tutti i tempi. Pensate che lui, che è stato uno dei giocatori più veloci in campo, dotato di una volée assassina che fulminava l'avversario, Gerulaitis è arrivato solo a essere al massimo terzo nella classifica dei migliori giocatori del mondo. Non è poco se si considera che al primo e secondo posto in genere c'erano Connors e Borg, piuttosto che McEnroe. Lui è stato uno dei personaggi più amati del tennis, sia dal pubblico che dai compagni. Era un uomo che coglieva ogni occasione per divertirsi, per fare festa, per godere e a pieno della sua vita. Se potessi avere nei campi da tennis lo stesso successo che ho quando ne sto fuori, sarei il numero uno. Sì, lui sapeva come divertirsi. Si racconta che un anno il suo estratto conto dell'American Express fosse il terzo più alto del mondo, neanche fosse il sultano del Brunei o uno del genere, un arabo, un magnate russo. Era uno spendaccione, ma era anche generoso, irruente, amichevole. Faceva il pagliaccio, ma prendeva sul serio il suo lavoro. Insomma, un uomo buono che si divertiva a fare il ragazzo non della porta accanto. Gli piacevano le belle donne, le belle macchine, però la gente comune lo capiva, lo amava, gli avevano dato anche un soprannome, come ricorda il suo allenatore, un altro grande ex tennista, Eric Stoll. A New York tutti lo conoscevano come Broadway Vitas. Aveva questa grande Rolls Royce gialla e tutti sapevano che c'era lui al volante. Però Gerulaitis non era solo uno che andava in giro a divertirsi, perché poi sul campo lavorava duramente, riusciva a allenarsi anche 8 ore di fila, anche magari dopo una notte brava allo studio 54, e poi il giorno dopo alle 8 di mattina era già in campo, perché lui era affamato di vita e forse perché sapeva che la sua vita sarebbe finita troppo presto, a 40 anni, per un avvelenamento da monossido di carbonio dovuto da una caldaia difettosa, forse. Vitas Gerulaitis nasce il 26 luglio del 54, il nome completo tipicamente lituano è Vytautas Kevin. I suoi genitori sono appunto immigrati lituani che hanno raggiunto la terra delle mille opportunità nel 49. Il padre e la madre sono tennisti, il padre è stato campione lituano di tennis prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, è scappato per l'occupazione russa, è rimasto in un campo profughi in Germania, dove assieme alla moglie ha partecipato ai campionati nazionali di doppio misto e poi finalmente è riuscito a prendere la tanto sospirata nave per l'America. A New York i Gerulaitis trovano lavoro e nascono anche 2 figli. Vitas e la sorella Ruta, e portano i figli dove? Sul campo da tennis, per continuare la tradizione familiare. È una tradizione che in un posto come Brooklyn sembra quantomeno eccentrica. All'inizio odiavo il tennis. Sapete quante persone giocavano a tennis a Brooklyn? Solo mio padre e io. Però lui fa in fretta a abituarsi ai campi da gioco. trascorre l'adolescenza a dare racchettate alle palline, anni di allenamenti che lo portano a raggiungere a 18 anni il primo posto nella classifica juniores americana. Intanto si iscrive alla Columbia University, però lui è un uomo d'azione più che di pensiero, ma soprattutto non c'è università che tenga quando, diventato professionista, in un anno tu guadagni tanto da poter avere una Lamborghini fiammante. E allora lui lascia gli studi, inizia a allenarsi seriamente nel famoso circolo del tennis di Port Washington, quello frequentato anche da McEnroe e dalla tennista Mary Carillo, e che lo ricorda già pieno di carisma. Mi ricordo quando lo vedevo arrivare le prime volte. Era così fico che quasi toglieva il respiro. Anche se non sapevi chi fosse, capivi subito che era qualcuno. I lunghi capelli biondi e scarmigliati, gli occhi un po' vicini. Era un vero personaggio. E nei primi anni 70 il tennis esplode, diventa popolare, non è più solo uno sport per l'elite, possono accedere anche i ragazzini dei quartieri meno abbienti, purché siano veloci, agili, pronti a dare spettacolo, anche i ragazzi della strada, e insomma con loro svanisce quel tennis ingessato, quello da circolo esclusivo, quello del piedino alzato dietro per fare una volée, e cominciano a giocare personaggi che si differenziano l'uno dall'altro, e forse il tennis non aspettava altro che un personaggio come lui. È una specie di attrazione a Port Washington, e lo era sicuramente quanto lo diventerà poco dopo John McEnroe. Quando iniziai a frequentare Port Washington, lui era già il migliore. Quindi, visto che ero un ragazzino, automaticamente non riuscivo a credere a quante ragazze riuscisse a beccare. E mi pareva che fosse quello che si divertiva più di tutti. E forse McEnroe, che racconta queste cose, ha trovato ulteriore ispirazione nel vedere cosa si può diventare quando giochi bene a tennis. Perché lui è bravo, Vitas, ha la stoffa della prima donna, e così si accorgono di lui sia il mondo dello sport che il mondo più glam. Nel 75, a soli 21 anni, viene definito il giocatore che ha fatto più progressi nel circuito professionale di quell'anno. Al tempo stesso diventa il re di ogni parte che si rispetti. In entrambi i casi riesce a soddisfare tutte le aspettative. Il falco e il gabbiano. Vitas Gerulaitis, il più simpatico di quel terzetto, Gerulaitis, Connors e Borg. Magari gli altri due vincevano un po' di più, però lui era quello che intratteneva il pubblico, era il più amato, la gente lo considerava uno di famiglia, fioccavano i soprannomi, il leone della Lituania per le origini e per la criniera bionda, oppure Broadway Vitas per le sue scorribande nelle discoteche newyorkesi di quel periodo. Mi piace uscire fuori la sera, non l'ho mai nascosto. Mi piace divertirmi, proprio come tutti gli altri, ma non credo di avere nulla di cui preoccuparmi perché ho lavorato sodo. Insomma, si diverte, ma intanto nel 73 è già un giocatore professionista a soli 19 anni. Comincia a frequentare i tornei dei grandi circuiti internazionali, comincia a vincere nel 75, per esempio vince il doppio maschile a Wimbledon in coppia con Sandy Meyer, e ha solo 21 anni e non si risparmia sul campo, e non solo sul campo, perché lui lo show lo continua anche fuori. Vitas aveva appena compiuto 21 anni. Così, dopo aver giocato la sua partita nel torneo a Pittsburgh, fece un annuncio a tutta la gente che era lì. Saranno state 2000 persone. Oggi è il mio compleanno, faccio 21 anni. Ci sarà una grande festa nell'albergo Tal dei Tali, un pigiama party. Dai, venite tutti! Beh, mi sa che quell'albergo se lo ricorda ancora il 21esimo compleanno di Gerulaitis, perché si dice che poco tempo dopo arrivarono centinaia di persone in pigiama che volevano partecipare al party, che la festa finì con le prime luci dell'alba. Si dice che in ogni poltrona dell'hotel ci fosse gente che dormicchiava. Insomma, una festa riuscita bene. Nel 77 Gerulaitis capisce che bisogna fare un passo avanti, sceglie un allenatore nuovo è un australiano, Fred Stoll, un grande ex campione, e Stoll rimarrà al suo fianco fino all'83. E uno dei primi effetti dei suoi consigli è uno dei match più memorabili della storia del tennis. Siamo a Wimbledon, è il 30 giugno 77, semifinali maschili. Connors nel campo accanto sta battendo a fatica un giovanissimo McEnroe, e davanti al pubblico delle grandi occasioni invece ci sono Gerulaitis e Bjorn Borg. Il campione svedese, che è velocissimo, fa un sacco di colpi apparentemente impossibili da prendere. Insomma, il risultato è un match che fino all'ultimo non trova un campione più degno dell'altro, perché Gerulaitis risponde. È una di quelle partite in cui nessuno merita di perdere, ma uno dei due si deve arrendere, e al quinto set, dopo 3 ore di gioco, Borg vince 8-6. Intervistato al termine della partita, Vitas si stupisce di essere riuscito a giocare così bene, e quindi la sconfitta gli brucia ancora di più. Gerulaitis però può sentirsi fiero di aver giocato una partita entrata negli annali del tennis di sempre, di esserne uscito con onore, un onore che gli viene tributato dallo stesso Bjorn Borg, vincitore. Probably one of the better matches. È stata forse una delle migliori partite che abbia mai giocato. Credo sia stato lo stesso anche per Vitas. Eravamo due giocatori diversi, con stili diversi, e ognuno tirò fuori il meglio dall'altro. Ed è per questo che a tutti è piaciuto vedere la partita. Non solo per uno o due set, ma per 5 set abbiamo giocato alla grande. Ma non è la prima volta che i due si incontrano. Era già capitato quando non avevano ancora 20 anni. La prima volta che incontrai Vitas fu a Miami, giocavamo all'Orange Bowl. Vinsi io, ma penso che Vitas fosse uno dei giocatori più veloci in campo. Gli piaceva essere aggressivo, gli piaceva molto venire sotto rete. Era una persona molto interessante da guardare. Beh, penso che per uno come Borg, Vitas fosse veramente una persona particolare, e perché tanto lo svedese è un gelido in campo e controllato, e tanto l'altro, Vitas, è generoso di sé, ha un cuore grande, sempre pronto a stringere per primo la mano dello sfidante di turno. E per Vitas non ci sono nemici dall'altra parte della rete, ma solo amici che capita di incontrare sul campo, con i quali ingaggiare uno scontro per amore del tennis, un atteggiamento che con cui anche il freddo scandinavo Bjorn Borg. Vitas aveva molte possibilità quella volta. In effetti sono stato molto fortunato a vincere quel match, ma la vera amicizia fra di noi è nata dopo la partita. Il giorno seguente mi dovevo allenare e poco prima di arrivare in campo vidi un tizio che arrivava dal club e mi dissi: somiglia a Vitas, ma non può essere Vitas. Quando arrivò più vicino vidi che era proprio lui. Gli chiesi: cosa ci fai qui? Così iniziamo a commentare la partita del giorno prima, e poi mi disse: quando hai voglia di allenarci insieme, io ci sono. Ed è partito tutto da lì. Il nostro rapporto, l'amicizia fra me e Vitas. Cioè, Vitas non era solo un grande tennista, soprattutto era una gran persona. Not only a great tennis player, but he was a great person too. Da Wimbledon 77 nasce un'amicizia inaspettata, ma profonda e duratura, e i due tennisti negli anni seguenti si alleneranno assieme, viaggeranno assieme, si divertiranno, e anche molto assieme. Quando Vitas muore, Borg, il freddo Borg, piange come un bambino, perché per lui è come fosse morto un fratello. Il falco e il gabbiano. Siamo arrivati al 1977 e abbiamo lasciato Vitas Gerulaitis, che è il protagonista del nostro racconto di oggi, sul campo di Wimbledon. Ha appena perso una memorabile partita contro Borg, però ha perso così bene che sembra che abbia vinto, e infatti il destino sembra volere risarcire Vitas offrendogli la vittoria in uno dei tornei del Grande Slam. È dicembre quando si trova in finale all'Australian Open di fronte a un inglese abbordabile che si chiama John Lloyd. We practiced every day. In quelle due settimane ci allenammo praticamente tutti i giorni, però poi uscivamo fuori tutte le sere. Arrivammo in finale, ma anche la sera prima del match uscimmo comunque. And, you know, we still went out that night. Eppure, nonostante la nottata brava, Vitas vince 5 set e vince finalmente un torneo dello Slam. La cosa ha un significato importantissimo per lui, come ricorda la sua amica Maria Carillo. L'Open d'Australia fu molto importante per lui. Tutti pensavano fosse solo un tipo da feste, invece era uno che si allenava moltissimo. Conosceva il mondo del tennis e voleva farne parte fino in fondo. He understood the history of the game and wanted to be a part of it. La vittoria all'Australian Open è importante soprattutto perché con i soldi vinti lui può comprare una villa ai suoi genitori, anche perché vuole dimostrare che nel suo cuore non c'è solo il Vitas Viver, ma anche un leone lituano grato al padre immigrato che gli ha insegnato a giocare lo sport più bello del mondo. E certo che dopo l'acquisto della villa, così con quello che rimane, si compra una Mercedes, una Porsche, due Rolls Royce, di cui una decapotabile e una di colore giallo, che in breve diventa famosa in tutta New York. Insomma, quando vai a fare shopping non è che puoi star lì a guardare al centesimo. Stavo uscendo dall'hotel per andare ad allenarmi quando una Rolls Royce arrivò davanti all'albergo suonando il clacson. Era Vitas che mi fa: salta su, Connors, dai! Ce ne andiamo un po' in giro, di qua e di là, e poi alla fine ti porto all'allenamento. Tutti conoscevano quella macchina, tutti sapevano che era quella di Vitas. E la voce che avete sentito è proprio quella di Jimmy Connors, che è un altro grandissimo protagonista del tennis degli anni 70, forse il più grande, tra l'altro grande amico di Vitas. È interessante vedere che in un mondo in cui la rivalità e la competizione sono all'ordine del giorno, poi Gerulaitis è uno di quelli che riesce a farsi degli amici veri con uno fraterno che è Borg. Ma anche Connors è quello che lo aiuterà, anzi forse sarà quello che lo aiuterà di più nella vita e ne saprà riconoscere veramente ogni merito. Ha dato al tennis molto più che il semplice gioco. Il suo atteggiamento era sempre cercare di includere le persone. What's your name, please? Judy, that's a pretty name. I never heard that name before. Some of the people he brought in. Riusciva a tirare dentro un sacco di persone, gente che probabilmente prima di allora non aveva mai sentito parlare del tennis. Dalle modelle agli attori, a gente come Andy Warhol. People like Andy Warhol. E infatti Andy Warhol lo immortala in uno dei suoi celebri ritratti. Ballano insieme allo Studio 54. Con loro c'è gente come Liza Minnelli, Mick e Bianca Jagger e tante donne che gli ronzano attorno, che suscitano un po' di invidia nei suoi amici, tra i quali John Lloyd, quello che lui aveva battuto e che invece era sposato con la grande tennista Evert, Chris Evert, ed era talmente sposato che lo chiamavano Mr. Evert. Le donne che riusciva a radunare intorno a sé mi lasciava sempre di stucco. Dio mio, delle decine e decine di ragazze che incontravamo durante quelle serate, almeno 20 di loro si innamoravano di Vitas. All love Vitas. Beh, con tutte queste donne che gli muoiono dietro, non è che lui abbia proprio l'esigenza di accasarsi, di prenderne una e non lasciarsela scappare. Solo una giovane attrice, Janet Jones, riesce a calappiarlo per qualche tempo. Si parla anche di matrimonio, lui le regala un anello, però in una memorabile intervista, quando il giornalista chiede come vi vedete a 40 anni, lei risponde cinguettando con 4 figli, mentre lui replica: io con 6 mogli. Beh, direi, insomma, un grande anche per la presenza di spirito. Si lasciano di lì a poco, infatti, ma nel più puro stile Gerulaitis rimangono amici. Però, come ha detto Jimmy Connors, Vitas sapeva dare amore, aveva un cuore grande e lo dimostra anche creando una fondazione per far conoscere il tennis anche ai bambini più poveri. Vitas voleva davvero portare il tennis alla gente e infatti ordinò migliaia e migliaia di racchette. Così c'era questo tennista fico dai lunghi capelli biondi che sembrava una rock star, che distribuiva racchette e diceva a tutti: dai, andiamo a giocare a tennis. Let's go play. Per tutti gli anni 70 lui continua a giocare alla grande. Nel 78 è terzo nella classifica dei migliori tennisti al mondo, lo abbiamo già detto, e in testa questa volta ci sono Connors e Borg. Però anche lui vince tanto, fa divertire il pubblico dei tornei perché si diverte lui, le sue volee sono micidiali, ha i piedi velocissimi, lo spirito leggero, ha molto senso dell'umorismo, è sua una delle migliori battute mai pronunciate nella storia del tennis. Siamo nel gennaio dell'80, batte Jimmy Connors nella semifinale dei Masters, è la prima volta dopo 16 partite perse contro il suo grande rivale. Alla conferenza stampa un giornalista chiede a Gerulaitis come fosse finalmente riuscito a battere Connors dopo 16 sconfitte e come ricorda proprio Connors, Gerulaitis sorridendo rispose così: nessuno batte Vitas 17 volte di fila. Una battuta che dopo tanto tempo circola ancora, che la gente ancora tira fuori, ricorda e cita, che non solo dimostra quanto humor avesse, ma anche che c'è da fare molto di più che giocare semplicemente a tennis. E Vitas era uno di quelli che non aveva timore di farlo. Per questo riusciva a rendere il tennis migliore. Beh, la sala naturalmente esplose in una fragorosa risata. La battuta passò alla storia. Però non è vero che nessuno riusciva a battere Vitas più di 17 volte, perché negli anni un nemico molto più insidioso di Connors o Borg inizia a prendere il sopravvento su di lui, ed è la cocaina. A New York, alla fine degli anni 70, scorre a fiumi, si porta in giro con disinvoltura, come le scarpe con la zeppa, i pantaloni a zampa d'elefante e la disco music. Lui è giovane, ha 25 anni, ha tanti soldi, ha voglia di divertirsi, fa le ore piccole e la mattina dopo però bisogna arrivare puntuale in campo. Insomma, spesso gli capita di fare tutta una tirata e non c'è un gioco di parole dietro. E sembra che non gli piaccia andare a dormire, forse perché poi quando arriva la notte fonda a dormire non ci riesce. E dopo qualche anno la droga inizia a segnare la sua vita sportiva e non solo quella. Nell'82 viene coinvolto in un'inchiesta per traffico di stupefacenti. È innocente, però la sua immagine di simpatico playboy non ne esce bene. Anche a causa della droga che lui si ritira dal tennis professionale nell'85 a soli 31 anni. Seguono anni difficili, anni dai quali esce solo con l'aiuto degli amici, quelli veri, quelli che ha saputo coltivare, come Jimmy Connors. A Vitas non stava andando bene e si doveva fare qualcosa. Ricevetti una chiamata da un amico che mi disse: devi venire in Florida, dobbiamo parlare di Vitas. A quel punto Vitas era a Thornbury, ma una volta lì mi pareva che tutti non facessero altro che parlare. Così andai a bussare alla sua porta ed entrai. E lui mi disse: a che cosa devo tutto questo? E io gli dissi: siamo qui perché ci teniamo a te, ti vogliamo bene e abbiamo paura di quello che ti può succedere. Se hai voglia di cambiare le cose, siamo qui per aiutarti a stare meglio. Jimmy Connors porta Vitas con sé in giro per l'Europa, per gli Stati Uniti. Si esibiscono in compagnia di altre glorie del tennis. Sembra un po' come lavorare al circo, però in show come questi lo spirito istrionico di Gerulaitis riscuote un grande successo e poi intanto di notte si può andare in giro per le discoteche di tutto il mondo. Io l'ho incontrato spesso a Milano, però soprattutto questi tour significano per Gerulaitis tornare a vivere. I was out of tennis for about a 4-5 year period. Sono stato lontano dal tennis per circa 4-5 anni, poi Connors mi è venuto a riportare nel tennis. In realtà questa è la mia famiglia, quelli con cui sono cresciuto. Io pensavo di averne avuto a sufficienza, di Connors, di Nastase, tanto da bastarmene per una vita. Ma se devo essere onesto, questi ragazzi mi sono davvero mancati. Be honest with you, I really miss these guys. Così tutto sembra tornare in carreggiata. Lui, peraltro, ha un talento anche come commentatore sportivo in TV. Forse avrebbe anche un futuro come allenatore, visto il successo che ha con Pete Sampras agli Open di Roma nel 94. Vuole aprire un'accademia del tennis, però il destino ha deciso diversamente. Mystery surrounds the death today of former tennis star Vitas Gerulaitis. Ed è mistero sulla morte di Vitas Gerulaitis. Il corpo dell'ex tennista è stato trovato domenica in casa di un suo amico, Southampton, nello stato di New York. Ricevetti la telefonata di un mio amico che mi disse: Vitas è morto. E io risposi: sì, dai. No, Jimmy, non capisci. Vitas è morto. Vitas is dead. Jimmy Connors quella telefonata la ricorda molto bene, perché è una telefonata che ti annuncia la morte di un amico, difficilmente puoi dimenticarla, anche perché qualche giorno prima stavano giocando assieme, poi lui era tornato a New York per via di un dolore alla schiena e anche perché doveva partecipare a un evento di beneficenza. È ospite nella villa di un suo amico, il pomeriggio del 17 settembre del 94 va a riposarsi in una casupola che c'era vicino a una piscina, suona un po' la chitarra e poi un altro invitato della villa ci ricorda quel giorno e ci dice com'è andata a finire. And then the host said to him, il suo ospite gli disse: Vitas, andiamo a un party alle 7, se vediamo la tua porta aperta vieni con noi, se invece la lasci chiusa ti lasciamo dormire. Quando arrivò il momento andarono alla sua porta e la trovarono chiusa. Si dissero che Vitas aveva bisogno di dormire. Così lo lasciarono in pace e accadde quello che accadde. Era accaduto che la caldaia che riscaldava la piscina era difettosa, le esalazioni di monossido di carbonio avevano raggiunto la stanza in cui riposava Vitas e lo avevano avvelenato. Il suo corpo viene trovato il giorno dopo dalla cameriera e inizialmente i giornali hanno insinuato che si trattasse di overdose, però per fortuna, almeno nella sua memoria, l'autopsia ha fugato ogni dubbio. Non era cocaina, era sfortuna. Due giorni dopo al suo funerale arrivano tutti. Arriva Borg, arriva McEnroe, arriva Connors. Il funerale di Vitas fu veramente incredibile. Quando mi voltai per guardarmi intorno, vidi che in tutta la chiesa non era rimasto un solo posto libero. One seat available. Piangono tutti. Vitas sembrava immortale, sembrava l'amico che non deve morire mai. E forse invece è proprio che uno come lui, uno che ha bruciato la candela da tutte e due le parti, ha un destino segnato prima degli altri. Eppure era buono come il pane, era uno che era l'anima delle feste allo Studio 54, poi andava a distribuire le racchette ai bambini dei quartieri poveri. Muore abbracciato a una racchetta, si racconta, alla sua racchetta. Quello che lo ha conosciuto forse più di tutti, l'amico Jimmy Connors, nella sua autobiografia lo ricorda ancora come uno degli uomini più onesti che abbia mai incontrato. Non si tratta solo di tennis, si tratta della vita, della lotta e il modo in cui tu riesci a farcela. E lui ha combattuto una buona lotta fino alla fine. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, volare in alto e lasciare un segno, poi magari si cade però si risale, e ognuno ce la può fare. Se volete mandarci dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure visitate la nostra pagina su radio24.it oppure venite a trovarmi, a trovarci nei miei social, nei nostri social, insomma, se volete sapete dove sono.